discriminazione per chi non dice le cose in faccia. Non chiedo che tu mi prenda fra le tue braccia, sai. Vorrei capire il tuo pensiero e basta. Parlarsi in faccia è l'ideale e preferisco sia così. Le mezze parole mi fanno male e la tua maschera mi butta giù. Io ti conosco tra vestimenti da carnevale e scopro sempre di più. E nei salotti c'è un grande affare tra finti amici e finta complicità. Farmi il pacco, poi dimmi perché nella mia testa